essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata e benvenuti, andiamo subito a sentire i temi del giorno. In regia Peter Bescapè, in redazione Laura Vanossi. Balla che ti passa. Autunno, stagione difficile per la psoriasi. Cura il giardino e coltiverai il tuo cervello. Ho fatto dei saluti un po' veloci perché avevo premura, volevo scendere in pista. Oggi parliamo di ballo, dei numerosissimi vantaggi che il ballo ci regala. Lo dimostrano proprio le ricerche, vi ricordate si diceva balla che ti passa. Adesso non è più un semplice modo di dire, le ricerche dimostrano che libera la mente, metti di buon umore e soprattutto, questo se ne accorgono i ballerini, fa bene al fisico. E oggi a ballare con me qua in studio, ma devo dire che non mi sembra un grande ballerino, ho il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese. Buongiorno. Buongiorno, confermo che sono qua più come esperto che come ballerino, perché non sono proprio portatissimo al ballo. Ho già fatto delle prove? Lo facevo da giovane, quando lavoravo nei villaggi turistici, ma io mi impegnavo molto, ma era il numero di cabaret serale del villaggio. Nonostante che io cercassi di fare le cose bene, facevo ridere parecchio anche. E da allora mi è rimasto dentro questa cosa, per cui evito il più possibile di ballare, anche se mi piacerebbe molto. Ma il ballo ci fa bene o no? Assolutamente sì, da tantissimi punti di vista. Da 0 a 10, diamogli un voto. Ma anche un 9. Anche un 9. Sì, invece sì. Abbiamo, io do 10 all'ospite che è in linea con noi, è un maestro di ballo, notissimo ormai anche in televisione, Simone Di Pasquale. Ciao Simone. Buongiorno. Un bel 10 lode, Simone. Peccato, io so che il dottor Confalonieri non vuole, ma io devo dirlo anche a nome della redazione, della parte femminile della redazione, peccato che tu oggi non sia qua con noi, perché sennò ci avresti fatto ballare ad una almeno un giretto. Beh, ma arriverò dalle vostre parti il 25 novembre fino al 21 di dicembre, sarò da voi a Milano, quindi insomma non ci sai, adesso non mancherà occasione. Ok, allora noi siamo già prenotate, mentre adesso tu sei al Sistina, giusto? Ora sono al Sistina, terminiamo il domenica 26 e poi andremo per... Ci dici anche il titolo, il nome dello spettacolo? Lo spettacolo è Hairspray, grasso e bello. Sì. E quindi possiamo dire che il ballo, oltre a farci sentire sicuramente balla che ti passa, quindi ci fa star bene sia mentalmente che fisicamente, in questo spettacolo dimostriamo che comunque sia anche chi ha qualche chiletto di troppo, ok? Sì. Può essere sicuramente un grande ballerino. Senti, infatti abbiamo Stefano Masciarelli, infatti, che interpreta quello di Edna, e la giovane protagonista Tresi, Giovanna D'Angi, una giovane siciliana, un grande talento. Morbida. Molto morbida. Molto morbida. Una bellissima ragazza. Sì. Senti Simone, ma una mia impressione, le persone un po' morbidelle sembrano più delle piume, sembrano più leggere, è vero? È vero? Chi ha qualche chilo in più, io l'ho accostata insomma in molti anni di insegnamento e comunque stia facendo questo lavoro, che chi ha qualche chilo in più risulta molto più ritmico e molto più morbido, è vero. 824 0024, dottor Confalonieri, quindi lei il fisico ce l'avrebbe per essere leggero? Beh sì, probabilmente sì, quel minimo di grasso in più sicuramente non mi manca, forse mi manca la capacità di sentire la musica, di muovermi a tempo, di gestire bene la mia corporeità, però il messaggio che c'era così tra le righe in quanto raccontava Simone è estremamente importante. Da un lato che anche un leggero sovrappeso non controindica un'attività come il ballo, e dall'altro la straordinaria validità del ballo per fare del bene. Lo si associa raramente al benessere, alla forma fisica o alla salute il ballo, lo si associa molto di più agli aspetti, così se vogliamo, socializzanti anche, di benessere psicologico, mentre anche sul piano fisico non ha nulla da invidiare ad attività molto più pubblicizzate. Quindi mi piace molto l'approccio di questa trasmissione. Allora io chiederei ai nostri ascoltatori: perché avete iniziato a ballare, con chi e con quale tipo di ballo? Dottor Confalonieri, lei che cosa vuole aggiungere? Ma io gli domanderei anche se attraverso il ballo hanno notato cambiamenti nel loro fisico e nel loro stato di salute. Se sono stati meglio o se è comparso qualche problemino o qualche acciacco che non pensavano di avere. Insomma, sul piano proprio della salute, il ballo vi ha fatto bene o vi ha fatto male? Al di là del divertimento, della socialità e di tutti questi altri aspetti. Aspettiamo le vostre risposte per discuterne insieme. Simone, vuoi aggiungere una domanda anche tu da fare ai nostri ascoltatori per attivare un po' la nostra discussione intorno alla balera? Ma il dottore è stato abbastanza chiaro, una domanda molto chiara alla quale io per la quale io ho già una risposta, perché ecco, riesco ad avere la risposta sotto le mie mani, perché insomma frequento molta gente che si avvicina al ballo inizialmente con molta scetticità e successivamente ne viene completamente rapita. No, altre domande non ne ho assolutamente. Vorrei solamente che molte di quelle persone che si distaccano dal mondo della danza per timidezza, alcune volte devono cercare di spronarsi un po' di più, di forzarsi un po' di più, perché poi scoprono veramente un altro mondo. Anche lì, Simone, immagino che il maestro faccia la differenza, quindi raccontateci anche perché non mettete il piedino in pista. Che cosa vi frena, che cosa vi blocca? Il timore di non essere portato, il timore poi di non essere magari capace di memorizzare tutti i passi, o magari non avete tempo, lo trovate difficile come idea inserire il ballo magari nella vostra settimana. 824 0024, due cavalieri a nostra disposizione, uno devo dire che potrebbe anche farci ballare, l'altro però dottor Confalonieri, lei invece ci dice ballate che vi fa bene. Esatto. Quindi noi balleremo più volentieri. 349 238 6666 se preferite invece scriverci e mandarci un messaggio. Una mela al giorno. Parliamo di psoriasi, lo facciamo per ricordarvi un appuntamento importante. La DIPSO, l'Associazione per la Difesa degli Psoriasi, ci promuove una campagna di informazione e sensibilizzazione su questa malattia. Mercoledì si celebrerà, mercoledì 29, la giornata mondiale, ma noi in Italia, come si dice, giochiamo d'anticipo, e proprio questo fine settimana nelle principali città italiane ci saranno dei gazebo informativi. E per maggiori informazioni potete anche contattare il numero verde 800 031 566 oppure andare sul sito www.adipso.org. E anche noi vogliamo fare informazione, rivolgerci soprattutto ai pazienti che spesso seguono le terapie ma non trovano grande soddisfazione. Invece la psoriasi, sappiamo, si può curare, si deve curare. In linea con noi abbiamo il professor Giampiero Girolomoni, direttore della clinica dermatologica di Verona. Professore, buongiorno. Buongiorno. Io inizierei a chiederle come si può affrontare la psoriasi, che si manifesta a livello del cuoio capelluto e che genera molto disagio nel paziente, soprattutto perché si teme che queste placche alla lunga portino poi alla caduta dei capelli. Il cuoio capelluto è difficile da curare perché ci sono i peli, che rende difficile l'applicazione di pomate. Però in genere il trattamento può essere fatto, bisogna sempre prima rimuovere le squame con dei preparati solubili oppure in unguenti che rimuovono prima le squame, poi agire sulla componente infiammatoria. Per questo esistono delle lozioni ed esistono anche delle schiume a base di cortisone o di derivati della vitamina D piuttosto efficaci, che consentono delle lunghe remissioni. Ci sono pazienti che preferiscono fare il trattamento al bisogno, quindi agire mentre c'è l'infiammazione e poi interrompersi, altri che preferiscono invece fare anche trattamenti di mantenimento, anche quando la malattia è scomparsa, con trattamenti periodici una volta alla settimana per appunto mantenere la remissione. La detersione è importante nel cuoio capelluto, ma non è essenziale, perché lo shampoo sta sul cuoio capelluto per pochi secondi, a volte pochi minuti. Tuttavia, preparati a base di zinco peritione o preparati a base di sostanze che limitino la crescita di certi funghi che ci sono normalmente sul cuoio capelluto possono essere vantaggiosi anche nella psoriasi. Altrettanto imbarazzante la psoriasi che si manifesta nella zona dei genitali, professore, perché le placche rosse possono mimare e simulare una malattia infettiva. Nelle zone genitali la psoriasi chiaramente è estremamente imbarazzante, è spesso fastidiosa perché dà prurito, a volte anche dolore, e va trattata in maniera molto efficiente chiaramente. Spesso nelle zone genitali la psoriasi non si presenta come in testa con la squama sopra, ma già si presenta come delle placche rosse a limiti ben definiti, quindi non c'è bisogno di togliere le squame prima e si agisce direttamente con degli antinfiammatori. Nel caso delle zone genitali, che sono dove la pelle è sottile, si lascia attraversare bene da diversi composti, oltre ai corticosteroidi, ai cortisoni citopici e ai derivati della vitamina D, possono trovare un vantaggio altri farmaci antinfiammatori, che si chiamano in gergo tecnico inibitori della calcineurina, che possono essere veramente vantaggiosi senza avere un po' gli effetti collaterali del cortisone che a lungo termine possa tagliare la pelle. Quindi quello che si può fare spesso utilmente è di curare inizialmente con una molecola cortisonica buona per alcuni giorni, ridurre una remissione significativa, così il paziente ha anche subito soddisfazione, e poi fare un mantenimento anche con questi prodotti antinfiammatori diversi, inibitori della calcineurina, che sono il tacrolimus e il pimecrolimus, che possono essere molto utili. La psoriasi si può curare e si deve curare. Il paziente spesso è deluso dei trattamenti perché la malattia ritorna, chiaramente, una malattia cronica che tende a recidivare, ma se uno è testardo a sufficienza, le recidive possono essere diradate moltissimo e quindi uno può essere contento abbastanza delle cure che ci sono. Allora, grazie professore per essere stato con noi. Ricordo allora l'appuntamento nelle piazze, il sito della Adipso, www.adipso.org. Grazie professore. Grazie a voi. Pronto soccorso. Mostratemi come danza un popolo e vi dirò se la sua civiltà è in buona salute. Confucio. E noi siamo di nuovo insieme per parlare di ballo. Arrivano tantissimi messaggi, dottor Confalonieri. Un po' me lo aspettavo, perché è un mondo che sta tranquillo, nascosto nei loro spazi, con i loro riti. È un mondo tutto sommato poco conosciuto, ma estremamente vasto, questo del ballo. Se ne parla poco, ma sono tanti. Oggi parleremo dei vantaggi, insieme a Simone Di Pasquale vi daremo anche delle indicazioni. Simone, per chi magari è ancora tentennante su quale tipo di ballo scegliere, sicuramente un tuo consiglio potrebbe fare la differenza. Ma indubbiamente, diciamo che per coppie già che stanno insieme già da un po' di tempo e non sono più, ecco, diciamo così, dei bambini, io consiglierei di iniziare a studiare tango argentino, perché è veramente un mondo, una danza che ha una grande cultura alle spalle. E questo è quello che consiglio, oltre a comunque sia frequentare ogni tipo di corso, perché qualsiasi tipo di danza ci fa star bene e fa bene. Voglio leggervi un messaggio, arriva da Joe, ci scrive: io vado da solo in discoteca con l'approccio della palestra, vado, ballo scatenato 2 ore, esco sudato e rilassato di corpo e di mente. Dottor Confalonieri, questo fa in un certo senso il paio con un altro sms che ci arriva da Alessandra e ci chiede un suo consiglio, meglio il ballo o la palestra? Ecco, sono estremamente interessanti, diciamo che tutto sommato, se dovessi dire così, direi quasi meglio il ballo. Il ballo sicuramente ha degli effetti sulla nostra resistenza, sul nostro sistema cardiovascolare, sulla nostra forma fisica maggiori e più rapidi rispetto alla palestra. La palestra ci consente di fare un lavoro più settoriale, più dedicato soltanto ad alcuni gruppi muscolari e magari più specifico. Il ballo indubbiamente ha degli effetti tonificanti anche a livello muscolare, soprattutto sulla muscolatura posturale, però coinvolge non soltanto le gambe ma anche il tronco e le braccia, quindi ci coinvolge in modo completo. Quindi direi, se vogliamo un allenamento a 360 gradi, il ballo. Se vogliamo un allenamento specifico localizzato su qualche problematica, la palestra. Sono un musicista e ho molto senso del ritmo, ma nel ballo è il ritmo che non ha il senso di me. Cosa posso fare? Vorrei andare a ballare con la mia amata, ci scrive Sergio. Simone, ci sono persone che sembrano un po' legni o tale si sentono. Sì, è vero. Comunque questo problema dei musicisti non è la prima volta che lo incontro. Ho lavorato quest'estate con un altro musicista, bravissimo, ma negatissimo per il ballo. Che cosa posso consigliare a lui? È sicuramente di iniziare, perché c'è bisogno comunque sia di pratica, di coordinazione, deve avere fiducia e serve anche molto l'aiuto dell'insegnante, che deve mettere l'allievo in condizione di poter credere nelle proprie potenzialità e di poter ottenere, insomma, risultato nel tempo. È un po' una sfida con se stessi. mi sembra. E una sfida di questo... Alcune volte diventa una sfida anche per l'insegnante riuscire a far muovere. Bene, io ho in linea con noi un amico, Tiberio Timperi. Ciao Tiberio! È un amico di Simone Di Pasquale, che la sfida se l'è lanciata con se stesso per ballare. Comunque, devo dire la verità, ha detto bene Simone, è una sfida per l'insegnante. Perché gli hai dato del filo da torcere, Tiberio. Noi personalmente no, ma la mia insegnante, certo. Sì, va detto che in questo caso noi uomini siamo svantaggiati, perché di solito è sempre l'uomo, correggimi Simone se dico una fesseria, che conduce la danza. Simone... È davvero, Tiberio ha fatto comunque sia un grande lavoro e indubbiamente, come dice lui, è svantaggiato nel momento in cui è il cavaliere, è l'uomo ad essere l'inesperto, perché comunque sia il cavaliere, riuscendo a gestire la coppia, riesce sicuramente più ad aiutare la dama, nel caso inverso invece la dama che deve un po' prendere il cavaliere e tirarlo un po' da una parte all'altra, indubbiamente. Però Tiberio ha dato una grande dimostrazione a tutti quanti, insomma, a chi si avvicina al ballo da zero, di poter comunque sia riuscire. L'ha fatto con grande simpatia. Senti, secondo te poi c'è riuscito Simone? E Tiberio, tu ti senti adesso, ti senti capace, Tiberio? Così poi sentiamo anche il giudizio di Simone. Premesso, no, non mi sento capace. Il ballo è una cosa seria, dietro alla quale c'è tanta fatica e tanta applicazione e tanto sudore e anche tanta cultura e sensibilità. È un compendio di situazioni che poi alla fine hanno solo 3 minuti per uscire fuori, per cui chapeau ai ballerini professionisti. E per quanto mi riguarda, ti dico sinceramente, mi sono trovato bene nei balli in cui era richiesta una certa rigidità d'insieme, come il valzer. Come dire, mi viene bene essere rigido. Certo, se avessi continuato probabilmente su alcune cose, come il valzer ad esempio, probabilmente avrei potuto cavarmela bene. Su altre mi sento proprio a disagio, con lo sculettamento, con certe movenze che proprio non mi appartengono. C'è niente da fare. C'è niente da fare, dice Tiberio. Non tutti possono fare tutto, ed è per questo che Simone è in Italia, ma non credo solo in Italia, credo sia ben posizionato a livello di classifica mondiale come ballerino, insomma. Senti Tiberio, ma alla fine questa esperienza che cosa ti ha lasciato dal punto di vista proprio del benessere fisico? Ma guarda, ho scoperto di avere molti più muscoli di quanti non pensassi di averne. All'appello hanno risposto in molti, poi come dire, ce li siamo dimenticati per strada, però colgo l'occasione per ringraziare tanto Simone quanto Massimo Romeo Piparo, che ha avuto questa idea di questo spettacolo che ricorda un po' la canzonissima di una volta, nel senso più alto e nobile del termine, ecco. Tiberio, siamo noi che ringraziamo te per aver messo a nostra disposizione la tua esperienza e ti vediamo sabato e domenica con Mattino e Mezzogiorno in Famiglia su Rai 2. Grazie. Io che ringrazio voi, perché siete veramente una bella radio. Oh, grazie. Allora senti, ti mandiamo un bacio noi a un ballerino che sul valzer va forte. Grazie Tiberio, buona giornata. Ciao. Adesso è quasi tempo di andare a sentire i mercati, ma c'è tempo ancora per sentire Silvana, che ci chiama da Vicenza. Silvana, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, complimenti, ti ascolto sempre. Grazie, sì, Silvana. Fatto la mia testimonianza. Sì. A me quando ero giovane ho sempre avuto passione del ballo, perché ho il ritmo proprio dentro. Sono tornata dopo tanti anni l'altra sera, ho avuto il fiatone, ho avuto difficoltà perché avevo rigidità. Poi però sono andata una meraviglia. Sono tornata a casa e ho dormito tutta la notte. Fantastico. Silvana, aveva anche un cavaliere che la portava bene? Sì, ho trovato un bravo ballerino, meglio di uno, perché mi piace ballare con tutti, perché sei lì. Sì. Quindi... E ha dormito. E ho trovato che sono bravi i ballerini. Io ero giù di allenamento, mi hanno accompagnato, sono andata bene. Vede Silvana, chiediamo conferma a Simone. Simone, è un po' come andare in bicicletta al ballo. Chi lo faceva da giovane può riprenderlo a fare anche quando gli anni sono un po' avanti. Assolutamente sì. Ma anche chi ha avuto sempre il sogno di ballare da bambina o da bambino po' come così a farlo adesso, per magari per molti motivi in passato non o la famiglia tante volte non lo permetteva. Io ho le mie zie che mi raccontano che i genitori non permettevano loro di andare a ballare. Quindi scateniamoci. Sì, sono rimaste con questo sogno nel cassetto, ma possono realizzarlo adesso. La danza viene dalle profondità della natura interiore dell'uomo, dall'inconscio. Jung. E scendete in pista con noi, oggi parliamo di ballo. In linea abbiamo Simone Di Pasquale, in studio il dottor Franco Confalonieri, a cui chiedo di rispondere subito ad un messaggio. L'avete già detto, il ballo anche tutti i giorni e con impegno non fa dimagrire, anzi, in genere chi balla ha un aumento di peso. F puntato B. B. Beh, non sono proprio d'accordo. Intanto l'aumento di peso potrebbe esserci, sì, se ci potenziamo muscolarmente aumenta un po' il nostro tono muscolare, aumenta anche il peso perché aumentano i muscoli, ma la percentuale di tessuto grasso diminuisce. Anzi, direi che in termini di intensità e di caratteristiche dell'attività, il ballo è un'attività particolarmente adatta al dimagramento. Tendenzialmente un'ora di ballo può portare a un dimagramento pari a 40-45 minuti di corsa, a un consumo intorno alle 600-700-750 calorie, quindi un consumo assolutamente importante. In questo caso non sono d'accordo col messaggio se parliamo di perdita di tessuto grasso. Poi è chiaro, magari non è l'obiettivo fondamentale per cui lo facciamo, ma un obiettivo collaterale sicuramente significativo. Simo, volevo chiederti una cosa. Tiberio Timperi ha detto: riuscivo bene nei balli che richiedevano una certa rigidità, ad esempio il valzer. E questo mi ha suggerito di farti una domanda: ma noi potremmo scegliere il ballo anche in base alla nostra struttura? Ma sicuramente ognuno di noi è portato per un genere di ballo a seconda di quello che poi è il ritmo. Sicuramente Tiberio era più portato per dei balli meno frenetici, ecco, sì. Così. Anche se io sono del parere che tutto è legato ad una questione di timidezza, perché il fatto magari di muovere in maniera più eccessiva o frenetica le anche può inibire e bloccare il fisico di una persona, però indubbiamente ognuno di noi è portato per uno stile, quindi sicuramente Tiberio amava più ed era più portato per un valzer, per un tango, eccetera. Insomma, l'ha dimostrato. Poi mi piace sentire da lui, come da molti altri personaggi che hanno avuto questa esperienza, quella di Ballando con le Stelle. E hanno conosciuto il nostro ambiente e sanno quanta passione ci vuole, e molti di loro ne escono molto rafforzati da questa esperienza. Questo è anche uno dei tanti vantaggi del ballo che hai provato, è proprio recupera anche molto l'autostima, si prendono un po' le misure. Ti metti alla prova e riesci a prendere coscienza delle tue capacità, perché sai di partire completamente da zero e poi vedi insomma i risultati che ottieni dopo un certo periodo di tempo, quindi ciò vuol dire che tutti quanti possono imparare a ballare a qualunque età e i risultati si vedono. 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Diteci che cosa vi ha dato il ballo, come vi ha cambiati. Rocco da Pistoia, buongiorno. Allora, io voglio dire la mia. Io ho 55 anni, non ho mai ballato in vita mia. Quest'anno mia moglie mi ha convinto, siamo andati in una sala da ballo. Una scuola di ballo. Sono 4 settimane che stiamo andando, ballo liscio e latinoamericano. Sì. Ci troviamo, diciamo, abbastanza bene e siamo un po' rigidi, però non ci troviamo. Quindi siamo consapevoli che una cosa, diciamo, non è tanto facile. Però abbiamo conosciuto tante persone, insomma, quindi il bilancio è positivo, Rocco. Positivissimo. Quindi un consiglio arriva anche da Rocco. Andiamo ad Adriano, che ci chiama da Genova. Buongiorno Adriano. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la vostra radio e per le vostre trasmissioni. Grazie Adriano, ma lei mi dica, è un ballerino? Sì, dunque, la mia storia è semplicissima e velocissima. Io ho 63 anni, ho iniziato a ballare a 50 anni, quindi 13 anni fa. Sì. E in questi 13 anni ho ballato parecchio, perché tre sere alla settimana andavo su piste, a ballo liscio ovviamente, chiaramente. E, però mi sono trovato un piccolo guai, volevo approfittare del dottore che è presente lì per conoscere... Certo, anche perché... E sulle articolazioni, in effetti, poi ho avuto delle ripercussioni non gradevoli. Guardi, Adriano, lei rende felice, sì, rende felice il dottor Confalonieri, perché, come ogni buon medico, vuole parlare dei vantaggi ma anche dei rischi. Quindi Adriano ha le articolazioni che hanno avuto qualche problema, ma sarà proprio il ballo, ha insistito troppo, dottore. Ma potrebbe essere il ballo, anche se qui bisogna fare un discorso preciso, nel senso che da un lato, rispetto a tutta una serie di patologie o di malattie che compaiono con l'età, il ballo può essere un ottimo strumento preventivo. Pensiamo per esempio a tutte le problematiche dell'anca: se uno comincia a ballare, continua a ballare con una certa regolarità, può prevenire tutte queste problematiche proprio perché mantiene attiva questa articolazione. Direi che dobbiamo stare attenti soprattutto ad eventuali problematiche a livello della colonna. Quindi se abbiamo problemi a livello della colonna, soprattutto in regione lombare, se c'è qualche discopatia, se c'è un'accentuazione della lordosi, delle curve della colonna, allora il ballo potrebbe essere un sovraccarico che aumenta il dolore, che aumenta i problemi. Lo stesso si potrebbe dire per le ginocchia, soprattutto se c'è già una patologia o se abbiamo ginocchia recurvate, valghe piuttosto che varie, cioè qualche problema, allora il sovraccarico legato al ballo potrebbe comportare dei problemi. Ma anche qua, abbinando al ballo un pochino di ginnastica posturale o correttiva ben fatto, possiamo concederci i vantaggi legati alla danza senza che questi sovraccarichi comportino problemi troppo gravi. Simone, scusami, ma nel ballo non si fa il riscaldamento come negli altri sport? Adesso che noi stiamo in qualche modo, dottor Confalonieri mi corregga, ma confrontando, facendo un confronto tra il ballo e la palestra, il ballo, non posso dire la corsa, ma un'altra attività... Bene, lo sport di resistenza, così mi fa fare bella figura. Volevo chiedere, c'è un prima? Assolutamente sì, c'è per chi lo fa comunque sia a certi livelli, ci dovrebbe essere anche per chi lo fa così a livello amatoriale ma fa quelle due o tre lezioni durante la settimana. Purtroppo c'è anche chi va in palestra e si mette sotto i pesi senza un riscaldamento, sì. Questa è proprio una cultura sbagliata che c'è... purtroppo che c'è nel nostro in Italia. Ci vuole un riscaldamento adatto a quello che si va a fare. Mi vorrei ricollegare un attimino alla problematica delle articolazioni. Purtroppo anch'io ho un problema nella regione lombare, ma è chiaro che io faccio questa attività anche per 5 o 6 ore al giorno, quindi sì. Voglio dire, probabilmente ci deve essere anche una predisposizione e che poi eventualmente il ballo ti va ad accentuare. A me sicuramente l'ha creato questa grande iperattività, magari delle persone che iniziano così o hanno una predisposizione o magari fanno veramente delle cose sbagliate, insomma, però... Senti, comunque, per evitare di fare cose sbagliate, poi chiediamo un consiglio anche al dottor Confalonieri, conviene sempre iniziare andando e iscrivendosi ad un corso con il maestro? Ma indubbiamente, il maestro però deve avere delle buone basi, delle buone informazioni, perché la postura è fondamentale. Comunque vada, il ballo segue sempre dei movimenti che sono molto naturali. Nel momento in cui si fanno delle azioni che vanno contro la nostra meccanica naturale, allora lì cominciano ad uscire fuori i problemi. Quello sì. Ci scrive Fabio da Lugano, ve lo leggo prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade. Da quando non ballo più, non soffro più di mal di schiena. Non arrivo a strapparmi dal ricordo quelle parvenze, quelle musiche, quei gesti che esprimevano, senza parole, un eccellente tipo di linguaggio muto. Shakespeare. E noi torniamo insieme. Simone, ma tu hai sentito che selezioni di frasi per restare nel tema del ballo? Vero? Il linguaggio del corpo. Il linguaggio del corpo. Il dottor Confalonieri annuisce. Ma prima di parlare di questo linguaggio del corpo, importantissimo in tutti i tipi di ballo, nel tango, come suggeriscono molti dei nostri ascoltatori, è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. un libro ad hoc in tema con l'argomento della nostra puntata. Si intitola infatti Lezioni di ballo. Se volete ricevere a casa questo libro dovete essere molto rapidi e mandare un'email a esserebenessere@radio24.it. titolo del libro, recapiti e numero di telefono. Naturalmente dovete essere i primi a raggiungere il nostro indirizzo di posta. In collaborazione con IBS.it. Devo dire che dai vostri messaggi ho noto una cosa molto particolare. Molti di voi hanno accettato il nostro invito, era molto tra le righe, confrontare il ballo ad un'altra attività sportiva, e ne arrivano molte. Ad esempio un interessante arriva da Mauro: il ballo è un po' come il nuoto, ti stanca molto ma non lascia strascichi a lungo come la palestra. E poi ci sono dei confronti con l'alpinismo, addirittura la corsa, la camminata veloce. Dottor Confalonieri. Questo è molto bello perché rispondono al nostro invito di considerare il ballo e la danza come un'attività sportiva assolutamente degna. In particolare questa correlazione fra ballo e nuoto è interessante, perché in entrambe le attività noi seguiamo, o dovremmo seguire, quel movimento naturale, quasi quel movimento primordiale di cui parlava anche Simone. Quindi tanto più il movimento è naturale, tanto più il movimento non è traumatico, non è violento sulla nostra struttura, tanti meno strascichi lascia il giorno dopo, come scriveva giustamente Mauro. Senti Simone, una domanda per rispondere. Devo dire, sono in prevalenza domande, sms di ascoltatrici. È vero che per il tango è una danza in cui bisogna abbandonarsi, farsi guidare dall'uomo, e oggigiorno si trova sempre più difficoltà quindi ad avere l'atteggiamento giusto per ballare il tango, dato che la vita ti porta inevitabilmente a cambiare un po' il tuo atteggiamento nelle relazioni con l'altro. Infatti molti, anche un maestro mi scrive, dice: le donne di oggi fanno fatica a ballare il tango perché non sanno più abbandonarsi e farsi guidare dall'uomo. Per questo prima io ho suggerito questo genere di danza delle coppie già comunque sia affermate nel tempo, perché comunque sia si riporta un pochino al ruolo tra uomo e donna. Non voglio dire che debba essere quello, ma è carino riscoprirlo anche in una danza. Il tango in realtà è un abbraccio, è semplicemente un abbraccio tra l'uomo e la donna. La donna si deve abbandonare completamente alla guida dell'uomo, e l'uomo deve conquistare la fiducia della donna e la porta in varie evoluzioni. In realtà non c'è, il tango è molto improvvisato. Molto improvvisato, quindi nasce molto dalla musica e sicuramente dal feeling che c'è tra uomo e donna, e la donna si deve saper sicuramente abbandonare tra le braccia del cavaliere, dell'uomo. Dottor Confalonieri, il cavaliere deve conquistare chiaramente questa tua questa qua ti voglio. Dottor Confalonieri era rapito, cosa stava pensando? Stavo pensando che forse non mancano soltanto le donne capaci di abbandonarsi, ma soprattutto gli uomini capaci di guidare. Ma questi mancano forse sempre di più. Allora, che cavalieri che vi ho portato oggi. Gian Maria da Genova, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, lei balla il tango, Gian Maria? No, io non ballo, volevo affrontare questo argomento magari da un punto di vista un po' diverso. Io ho una bambina, una figlia che a 12 anni, da 6 anni, frequenta un corso di danza classica. Sì. E tante volte magari si dice, ma non è un'attività sportiva. Io non sono d'accordo, perché ritengo che abbia avuto grossi benefici sia dal punto di vista fisico e anche, diciamo così, tra virgolette, mentale. Allora Gianmaria, chiediamo disciplina. Quindi Gianmaria, lei dice no, è un'attività fisica a tutti gli effetti. Chiediamo una battuta al dottor Confalonieri e una Simone Di Pasquale. Direi che va assolutamente bene, è un'attività sportiva, è un'attività completa. Va bene da un punto di vista fisiologico, va bene soprattutto fra i 6 e i 12 anni, perché è un'attività che aumenta la nostra intelligenza corporea, cioè la nostra capacità di gestire il corpo armonicamente, di modo intelligente. Quindi assolutamente ok anche come unica attività. Adesso capisco, non ci hanno mandato a danza, dottor Confalonieri. Simone, buongiorno. Simone, mi scusi, il Simone Di Pasquale, questo, che deve fare un commento per il nostro ascoltatore. Io suggerisco, come il nostro ascoltatore, a tutti i genitori di portare i propri bambini, sia maschietti che femminucce, a far danza, perché oltre a far bene fisicamente serve proprio come disciplina, perché i bambini comunque sia imparano a condividere del tempo insieme ad altri bambini, imparano a rispettare quelli che sono così le informazioni date dall'insegnante. È molto importante a livello formativo, oltre che fisico, anche caratteriale. Andiamo a Pistoia, ci aspetta Giordano. Giordano, siamo in chiusura, volevo proprio sentire la sua voce, magari il suo messaggio. Sì, io ho ballato per diversi anni, per amore di mia moglie mi sono avvicinato al ballo, non ero assolutamente un patito di questo sport, invece mi sono dovuto ricredere. È uno sport molto sociale, perché sì, per quanto io possa adorare il nuoto, la palestra, tutti questi sport, però sono sport solitari. Invece il nuoto è uno sport, la danza è tutto, il ballo sì, è uno sport sociale, perché ti aiuta a interagire con la tua compagna e anche con le persone che ballano. Perfetto. Poi succedono anche che si scoprono delle belle amicizie. Delle belle amicizie. Quindi chiudiamo con questa telefonata di Giordano, una puntata tutta interamente dedicata al ballo. Ringrazio Simone Di Pasquale, ti vedremo anche qua a Milano tra poco, per il momento per le tue ammiratrici sei al Sistina a Roma. Grazie Simone. Grazie a voi. Grazie al dottor Franco Confalonieri. Grazie, a risentirci a tutti. La vita è un ballo, insomma. 800, se volete scriverci, essere benessere @radio24.it, e l'appuntamento per noi torna domani con Questa casa non è un albergo, lunedì di nuovo con La salute, il dottor Confalonieri venerdì prossimo. Un saluto da Nicoletta Carbone.